Te impari molte cose, anche dalle botte, col naso e con le mani. Questa è una vita da cani, randaggi incattiviti dalla strada. Veri diavoli che non vestono Prada. Preparati al mio prossimo sketch. Sono uscito dal mio corpo dopo aver pippato catch. E le mie rime, passo e setaccio. Parlo de spaccio ed è quello che me faccio. Scelta che poi ti condiziona, presa male che mai più t'abbandona. Ripensando alle volte che non ho scritto niente, ripensando alle volte che sono stato assente, ripensando alle volte che non ho reagito, ripensando alle merdate che manco digerito, ripensando a tutto ciò. Ora è congeniale, portami dietro rabbia in maniera naturale. Anche gli amici te fanno le merdate. Il pensiero della figa che rovina le serate. Sarà che a 20 anni c'è un pieno d'ormoni, ma se non li svuoti poi te girano i coglioni. Te lo dico a testa china come un mulo. I miei pezzi d'amore me li so sbattuti in culo. L'altra sera m'è successa una cosa strana. Me so intoppato con una troia nigeriana. Me voleva manna via, do batteva in uno spiazzo. Gli ho detto senti bella ma levate dal cazzo. Ripensando alle volte che me sei intoppato, ripensando ai posti in cui sono stato, ripensando alle volte che m'hanno imbruttito, ripensando alle volte che me so stranito, ripensando alle volte che me so drogato, ripensando alle mignotte che me so passato, ripensando spesso a molte serate, ripensando a ciò che ho fatto, tra cui mille cazzate. La mignotta pe batte, io pe di pigne, tra cazzo e nacro tutti insieme a spigne. Però la puttana non c'è voluta stare, così pilla se è data a lavorare. Poi me so fatto il mio bel pezzo e me so dato con un po' di disprezzo. C'ho un amico che ancora vende e con ste mignotte troppo ci spende. A 19 anni non capita a tutti, ragazzi de borgata con gli occhi distrutti. È ciò che succede da molti anni, abitudine forgiata e attitudine a far danni. Ripensando alle volte che m'hanno fermato, ripensando alle volte che me so ubriacato, ripensando alle volte che ci ho riprovato, ripensando a questa musica e a quanto m'ha salvato.